E poi appunto il ritrovarsi nelle piazze per stare insieme, per ballare, per cantare, per parlare, condividendo magari qualche cosa da bere, qualche cosa da mangiare. Ripeto, in Francia questo è un fenomeno che ha toccato punte di 9.000, 10.000 giovani che si sono ritrovati nelle piazze delle diverse città, creando, non le dico quale caos, con grande disappunto delle autorità francesi. In Italia comincia, ripeto, a conoscersi questo fenomeno, però ci sono altri eventi culturali, quali, non so, la Notte Bianca, piuttosto che i flash mob, che ci danno proprio l'idea di come i giovani vogliano ritrovarsi anche per le strade, nelle piazze, quasi come se la piazza riacquistasse quel suo antico ruolo di luogo di ritrovo e di socialità. Quindi una necessità di partecipazione e di condivisione, quindi, che passa dallo spazio pubblico, appunto. Sì, sì, in particolare direi che adesso gli spazi della cultura e del divertimento, perché poi cultura e divertimento si intersecano, riutilizzano quei luoghi che originariamente erano destinati ad altra funzione. La dimensione social, quindi la connettività, la condivisione in rete, l'universo digitale, può avere in qualche modo contribuito all'abbandono di spazi chiusi, circoscritti come la discoteca, oppure no? È possibile, anche perché, ripeto, a mio parere il cyberspazio, che comunque è un luogo che crea legame a rispetto di quel che si pensa, legare perché maggiori sono i contatti, diciamo, virtuali, e più forte si sente questa esigenza di contatto reale. Forse questo è permesso, ripeto, favorito in luoghi, quelli che sono chiusi, magari più circoscritti. Invece all'aperto c'è una maggiore condivisione della propria città a volte, no? Di quelli che sono gli spazi pubblici, dei quali noi non ci accorgiamo neanche forse durante la giornata o mentre attraversiamo la città. Ce ne rendiamo conto solo quando la città sembra mettersi a nostra disposizione. Come dicevo prima, magari la Notte Bianca è un'occasione, quella, a mio parere, che ci permette proprio di riappropriarci di quelli che sono gli spazi che ci circondano. LinkedIn's Bring in Your Parents Day is encouraging parents to join their children at work for a day after a survey found that one. Di fondo, appunto, su LinkedIn ha cercato di capire quali erano le aspettative e le professioni più. Cambiamo argomento, andate a vedere sulla nostra pagina Facebook il video di Bring in Your Parents Day, l'iniziativa promossa da LinkedIn, il più grande network professionale online al mondo. 313 milioni di iscritti in Italia hanno ormai superato quota 7 milioni. Per il secondo anno consecutivo, il 6 novembre scorso, LinkedIn ha invitato le aziende di tutto il mondo ad aprire le porte ai genitori dei propri dipendenti per dare loro la possibilità di vedere con i propri occhi il contesto lavorativo dei figli. È un'iniziativa che ci piace perché mette in pratica una tendenza in evidenza anche nel mondo dei consumi: la necessità di creare prodotti e servizi che svolgano una funzione ponte tra le generazioni. Più di un genitore su tre, rivelava la ricerca di un anno fa di LinkedIn, non capisce fino in fondo che tipo di lavoro svolgano i figli. Quasi il 60% dei dipendenti, rivela quella di quest'anno, ritiene che i genitori abbiano preziose conoscenze e competenze professionali da tramandare, ma che non le condividano abbastanza. Ne abbiamo parlato con Marcello Albergoni, country manager di LinkedIn Italia e Spagna. Siamo molto contenti di aver organizzato un'altra volta questa situazione di contatto tra i genitori e i figli, e figli lavoratori, e crediamo che sia sempre un bel momento per aiutare i genitori a capire meglio la situazione lavorativa dei propri figli, per poter poi tramandare la propria esperienza e saggezza. Ed è anche stata, anche nel nostro caso, l'abbiamo fatto anche nei nostri uffici di Milano, una opportunità per permettere ai nostri dipendenti di dire grazie ai propri genitori per il supporto che è stato dato, che è una cosa che spesso ci dimentichiamo di fare. Dalla ricerca che anche quest'anno ha accompagnato la vostra iniziativa emerge una cosa molto interessante, che c'è la consapevolezza sia da parte dei figli che dei genitori di una necessità di scambio di competenze, di consigli, che però non viene messa in pratica. È vero, diciamo che molti genitori sono convinti di avere delle competenze che, se tramandate, potrebbero essere utili ai figli, tra le quali ad esempio il problem solving, la perseveranza, l'integrità, la capacità organizzativa e di gestione del tempo. Ma spesso i genitori ammettono di non condividerle abbastanza con i figli. Al contrario, i figli credono che i genitori abbiano avuto un impatto notevole sulla scelta e sullo sviluppo della propria carriera, e in particolare in Italia il 54% di loro la pensa così ed è una delle percentuali più alte in Europa. Quindi diciamo che assolutamente questa iniziativa permette di evidenziare alcuni fenomeni che sono senz'altro interessanti. Chiuderei citando anche le evidenze in relazione alla competenza da parte di madre e di padre invece. Sì, le differenze di genere, quindi insomma di padre e madre, sono evidenti, soprattutto per quanto riguarda alcune competenze. Quindi il 31% dei padri hanno capacità di lavoro di squadra rispetto al 22% delle madri, e il 20% dei padri hanno competenze tecniche contro l'8% delle madri. Questa è una delle cose più evidenti che sono saltate fuori. Poi ci sono tantissimi dati che, se volete, potete andare a vedere nel dettaglio nella nostra ricerca che è pubblicata sul sito linkedin.com. Bikeology. Oggi l'Italia monta in sella per avere strade più sicure. Nel nostro appuntamento settimanale con il mondo visto dalle due ruote non potevamo che parlare di questa iniziativa oggi, una sorta di flash mob diffuso in tutta Italia promosso dal movimento Salva i Ciclisti. Paolo Pinzuti di bikeitalia.it, ciao Paolo, ben ritrovato. Ciao Maria Luisa, buongiorno. Allora, che cosa succede, che cosa sta succedendo oggi in tutta Italia? Allora, sta succedendo che in oltre 22 città italiane, che vanno da Ancona fino a Vasto, i cittadini, quindi non solo i ciclisti, ma i cittadini di tutta Italia stanno manifestando il proprio dissenso, il proprio disgusto nei confronti di un sistema di mobilità che sta mostrando i propri limiti. Noi con questa operazione stiamo chiedendo alle istituzioni di muoversi finalmente, di fare qualcosa, perché se è vero che negli ultimi anni c'è stata una riduzione consistente del numero di incidenti stradali, la ragione di questa riduzione sta soprattutto nelle migliori tecnologie che sono state messe a disposizione nelle automobili, ma non per interventi strutturali da parte del governo e da parte delle nostre istituzioni. La velocità è ancora la prima causa di morte in Italia per quanto riguarda l'incidentalità stradale, e c'è in particolare all'interno delle aree urbane. Infatti l'incidentalità stradale si è ridotta considerevolmente, di quasi il 50% nel corso degli ultimi 10 anni in Italia, ma all'interno delle aree urbane l'incidentalità si è ridotta solamente, e soprattutto la mortalità si è ridotta esclusivamente dell'1%. Quindi Paolo, chiuderei con un invito per tutti da condividere, così da rendere le città bike friendly. Sì, e soprattutto di ridurre la velocità massima in area urbana a 30 km/h, perché è la velocità oltre la quale appunto si possono evitare incidenti, e soprattutto si possono evitare incidenti con esiti mortali. Grazie a Paolo Pinzuti, alla prossima. Grazie a te, ciao. Essere e avere. Non leggete come fanno i bambini per divertirvi o come gli ambiziosi per istruirvi. Leggete per vivere. Gustave Flaubert. Focus sui trend. Sono i libri i protagonisti del focus sui trend di questa settimana, anzi meglio, la lettura al di là, oltre la contrapposizione libro di carta, libro digitale che ormai non ha più alcun senso. Ha senso invece parlare di integrazione, di complementarità dell'universo libro intorno alla centralità della lettura e dei modi diversi di declinarla. Con i ricercatori di Future Concept Lab siamo andati allora alla ricerca dei segnali di riscossa, per così dire, dell'universo libro, a partire da quella che abbiamo individuato come un'inversione di tendenza. I libri, la lettura tornano ad essere l'elemento che valorizza, che nobilita il commercio, non il contrario. Ne parliamo con Valentina Ventrelli. Ben ritrovata, Valentina. Buon pomeriggio a tutti, buongiorno. Da dove partiamo? Partirei dalla riapertura della storica libreria Rizzoli in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, che sicuramente era una riapertura attesa e segna per la città di Milano una restituzione del salotto culturale, che dal 1949, dalla prima inaugurazione, è stato in ogni caso un punto di riferimento per 6 decenni, non solo dei circuiti intellettuali della città, ma anche per i milanesi. Ripartirei da lì perché il progetto è interessante proprio in virtù di quello che dicevi, perché riparte dai libri, riponendo al centro il tema della lettura. Niente cibo, niente caffetteria, niente distrazioni, no? Ma riportando al centro il tema del libro. Il libro non necessariamente di carta, ma perché all'interno della libreria la tecnologia e l'ebook sono molto presenti. E questo in qualche modo segna quello che dicevi tu, cioè un crollo in qualche modo della polemica sterile tra oggetto libro, oggetto digitale, ebook, nuovi strumenti, perché ripone al centro questo nuovo desiderio di lettura. Tra l'altro l'altro elemento che sicuramente in qualche modo riporta la lettura al centro è Book City, che è un evento partito 3 anni fa quasi in sordina con molti eventi, ma che nel giro di 3 anni si sono moltiplicati coinvolgendo tutta la città. Questa giornata e queste giornate dedicate alla lettura nei prossimi giorni in qualche modo invadranno la città di Milano con tantissimi incontri con gli autori, riportando appunto la lettura al centro del dibattito. Ecco Valentina, citiamo come sempre anche qualche dato di scenario. I dati parlano chiaro, cioè sicuramente il mercato librario italiano nell'ultimo anno ha registrato una contrazione, ma a fronte di questa contrazione l'e-commerce, esclusi gli ebook, hanno registrato un importante incremento, parliamo del più 12%, per cui siamo sempre lì, cioè non è vero che si legge di meno, si legge di più, ma si legge con diverse piattaforme, su diverse piattaforme. E questo è sicuramente un dato confortante e riguarda tutte le generazioni, cioè dalla letteratura per l'infanzia alla letteratura di passaggio fino alla saggistica, è sicuramente un tema che torna al centro. Ed è la cosa interessante è che non è soltanto la lettura come crescita personale, come educazione, ma ritorna ad essere un piacere che si esprime anche attraverso nuove forme. Del resto anche la notizia della settimana, mi riferisco ad Amazon Unlimited, rivela molto della nuova modalità di fruizione del consumatore, del lettore. Assolutamente sì, questa è notizia proprio di questi giorni. Amazon ha proposto in Italia, lancia anche in Italia l'abbonamento Kindle Unlimited, 15.000 volumi in lingua italiana e oltre 700.000 volumi in lingua inglese. Questo appunto racconta molto, per cui sicuramente l'e-commerce, ma anche ovviamente tutto quello che riguarda Kindle, ebook, le nuove modalità di fruizione diventano oggi un'opportunità che viene colta. Ci sono casi emblematici dal vostro osservatorio per quella che abbiamo definito un'inversione di tendenza, di strategia per la promozione e la valorizzazione dell'universo libro? Senza dubbio, anche perché negli ultimi 10 anni il marketing legato alle librerie ha lavorato sull'ibridazione, sulla ricerca anche di nuovi modelli, pretesti per attrarre il pubblico nelle librerie. Parlavamo prima caffetterie, ristorazione, cioè tutto quello che in qualche modo poteva attrarre in libreria per coinvolgere un pubblico sempre più vasto. Oggi assistiamo esattamente al contrario. In questo senso è interessante, proprio in questi giorni, il 27 ottobre, c'è stata la grande inaugurazione della Fondazione Louis Vuitton a Parigi con questo progetto attesissimo di Frank Gehry. Negli stessi giorni, sempre a Parigi, sempre Louis Vuitton all'interno del suo flagship a Bond Street ha inaugurato al primo piano la libreria. Con il nome Curated Shelf, sempre Frank Gehry ha selezionato personalmente un mix di titoli che vanno dalla letteratura alle grandi monografie che riguardano la sua personale interpretazione non solo del bello, per cui dell'aspetto progettuale, ma proprio del piacere della lettura, della sua formazione personale. E questo è segna davvero un'inversione, perché se per 10 anni, come dicevo prima, le librerie hanno sentito il bisogno di trovare dei pretesti per attrarre, oggi il libro, per cui diventa la nobilitazione del commercio, in qualche modo l'attrazione per una brand che apparentemente non ne avrebbe bisogno. Questo ci sembra davvero un segnale di grande interesse. Quindi le librerie che entrano nei negozi e non il contrario. Che non solo entrano, ma diventano il, come dire, la punta di diamante del commercio, in qualche modo la cultura che diventa forma di attrattività anche per il commercio. Siamo in chiusura, Valentina, con quale riflessione, con quale segnalazione? Beh, più che una riflessione, chiuderei con una curiosità, raccontandovi di questa divertente vicenda che ha dato spunto ad un'iniziativa che va proprio in questa direzione. Una sera di settembre un turista in visita a Londra è rimasto chiuso nella libreria Waterstone a Piccadilly Circus. È rimasto chiuso ed invece di, come dire, farsi cogliere dal panico, ha in qualche modo passato la notte condividendo sui social questa sua avventura. Allora, questa disavventura ha ispirato la stessa libreria a proporre in ottobre una serata in qualche modo che ha coinvolto i primi 10 che si sono registrati sul sito della libreria, offrendo loro un'esperienza totalmente nuova, un pigiama party all'interno della libreria, con letti, pigiamini, pantofole offerte, ma soprattutto la libreria ha messo a disposizione tutta appunto la sua fornitura di libri, che è stata poi condivisa sui social, diventando un evento di grande interesse, mettendo al centro di nuovo il tema della lettura, del piacere della lettura. Da una notte al museo, una notte in libreria. Un'idea di comunicazione, chissà, anche per le librerie in ascolto. Valentina Ventrelli, grazie, alla prossima. Grazie a voi, arrivederci. Il consumautore. Diamo subito il benvenuto a Francesco Morace, ben ritrovato. Un saluto a te, Maria Luisa, e a tutti gli ascoltatori. Quale il tema della riflessione che come sempre ci accompagna nei minuti finali di Essere Avere oggi? Dove puntiamo, per così dire, la lente del consumautore? Ma oggi guardiamo alle attività anche professionali che i nuovi consumatori apprezzano, e qui è divertente un riferimento alle 3C di mestieri un tempo molto umili e poco apprezzati, cioè il contadino, il cameriere e il cuoco. Ecco, in realtà sono 3 attività che per motivi diversi tornano a essere molto apprezzati e soprattutto aiutano anche a trovare lavoro. Quali caratteristiche intrinseche porta con sé questa riscoperta dei mestieri di un tempo? Ma allora, partiamo dai contadini, no? Dove peraltro dati ormai sotto gli occhi di tutti ci dimostrano il grande ritorno anche nell'immaginario giovanile di questa attività. Il 15% più di iscritti ad Agraria quest'anno, i nuovi agriturismi che hanno comunque spesso delle conduzioni di ragazzi molto giovani. Ecco, quindi la cura del territorio, il ritorno alla terra, ma non nel senso nostalgico del termine, perché quasi sempre poi queste attività hanno un'integrazione tecnologica molto avanzata. Quindi una rilettura 2.0, per così dire, delle tradizioni e professionalità di un tempo. Assolutamente, questo riguarda anche tutto il mondo che ruota attorno, diciamo, ai ristoranti, all'accoglienza, quindi da un lato il cameriere che però diventa lo specialista, diciamo, del servizio nei confronti del cliente, e poi naturalmente il cuoco. Insomma, qui MasterChef ha aperto una strada anche di immaginario che sappiamo essere molto potente. Direi quindi curare relazionale, contesto ambientale e creatività, perché di quella ci sarà sempre bisogno. Grazie Francesco, alla prossima. Grazie a voi. Finisce qui questa puntata di Essere e Avere, la potete riascoltare e scaricare come sempre dal nostro sito radio24.it, sezione programmi, veniteci a trovare anche sulla nostra pagina Facebook per tutti i contributi aggiuntivi, aspettiamo lì le vostre idee e i vostri suggerimenti in attesa di risentirci domenica prossima alle 15. Grazie in regia a Filippo Aureggi, grazie anche ad Adriano Palazzolo e Gianmario Ferronato per l'ispirazione e l'editing audio. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.